benvenuti a tutti! Penultima puntata per il 2017 di NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast proprio sulla stagione NBA 2017-2018 prodotta da Radio Big World. In trepidante attesa per quella che solitamente è la notte più entusiasmante della regular season, magari insieme all'opening night, cioè quella di Natale, diamo un'occhiata rapida alle classifiche settimanali del campionato di pallacanestro più bello del mondo, partendo questa settimana dalla Eastern Conference. Si riprendono e risalgono i Detroit Pistons con 3 vittorie consecutive che li riportano al quarto posto di conference dietro a Raptors, Cavs e Celtics. Affondano invece i Philadelphia 76ers che con 3 sconfitte consecutive si ritrovano ampiamente fuori dalla top 8 che garantirebbe l'accesso ai playoffs. Per Embiid e compagni ci sono 8 sconfitte nelle ultime 10 partite, con un record totale di 14 vinte e 16 perse al momento della nostra registrazione, che è al solito di mercoledì pomeriggio. Decimo posto di conference per loro, sorpassati momentaneamente anche da una Miami al nono, con una New York sopra il famigerato 50%, che al momento occupa l'ottavo posto dietro ad Indiana, Washington e Milwaukee. Proprio i Bucks hanno sconfitto nella notte di martedì una Cleveland da 5 vittorie consecutive in precedenza, che comunque ha vinto 18 delle ultime 20 gare. Straordinaria la risalita dei vicecampioni, coincidente con una stagione stellare di LeBron James, che anche sconfitto da Milwaukee con un Giannis Antetokounmpo da 27 punti e un Eric Bledsoe da 26, ne mette 39, provando a riaprire la gara negli ultimi secondi in modo incredibile, pur non riuscendo a portarla a casa per 3 lunghezze finali. 28 punti abbondanti, più di 9 assist e 8 rimbalzi per partita, per colui che è già definibile come il mio personalissimo MVP fino ad oggi. Per quanto riguarda invece il suo ex compagno, trascinatore ed anima di una Boston che continua a mantenersi in testa alla conference, ci sono quasi 27 punti per gara nelle 9 partite disputate a dicembre. Sto parlando di Kyrie Irving. Passando rapidamente ad ovest, continua il dominio di Houston con 14 vittorie consecutive, seguita comunque da una Golden State che non molla, seppur senza Draymond Green e Stephen Curry. Proprio a proposito del playmakerino dei campioni del mondo, la notizia è che l'infortunio della caviglia non gli permetterà di giocare la sfida rematch della finale contro Cleveland nella notte di Natale. Peccato veramente per lo spettacolo, oltre che per i Golden State Warriors. Senza di lui, comunque, Kevin Durant e compagni hanno portato a casa 5 W nelle ultime 5 gare. Dietro di loro, a parte San Antonio che staziona stabilmente al terzo posto con un Kawhi Leonard a mezzo servizio o anche meno per adesso, ci sono 6 squadre a giocarsi 5 potenziali posti playoffs disponibili, con Minnesota in testa. È Utah a restare fuori dalla top 8 di questa settimana, malgrado i progressi continui del suo rookie, già leader della squadra, quel Donovan Mitchell che nelle ultime 10 gare viaggia quasi 24 punti per partita e stagionalmente si attesta attorno ai 17.7 per gara al momento in cui stiamo registrando. Per molti, tra lui e Ben Simmons è già un testa a testa su chi sia il migliore della classe di matricole esordienti in questa stagione. Invece, con un Westbrook in vertiginosa ascesa, OKC raggiunge il 50% di vittorie ed il 7° posto di conference. A dicembre il numero 0 si è attestato al momento sui 25 punti, oltre 10 rimbalzi e 10 assist di media, e la tripla doppia a partita stagionale è anche quest'anno ad un passo. Per il momento manca uno 0,2 in percentuale rispetto agli assist ed uno 0,5 nei rimbalzi. A proposito di questi ultimi, in 2 gare consecutive di questa settimana contro Philadelphia e contro Indiana ne ha presi 17, un numero impensabile se consideriamo che si tratta della point guard della squadra. L'esplosione di Russell Westbrook coincide però con la crisi di Carmelo Anthony in casa Thunders. A dicembre appena 12 punti per gara per lui, con il 37% dal campo. Nella vittoria contro Denver fa registrare il suo minimo storico praticamente da una vita, con solo 4 punti e 2 canestri su soltanto 6 tentativi dal campo in 31 minuti. Come saprete, la settimana appena trascorsa ha lasciato ben più di una sfumatura di nostalgia al suo passaggio. Come non citare infatti il potenziale addio di Vince Carter alla città che lo vide sbocciare e soprattutto volare sulle teste del mondo, decollando verso uno status di immortalità, quantomeno per aver collezionato highlights inavvicinabili ad altri esseri umani potenzialmente camminanti su questo pianeta anche in futuro. Carter ha collezionato una media vicina ai 24 punti per gara nelle 7 stagioni ai Toronto Raptors ed è stato osannato e tributato a dovere dal pubblico di casa durante una standing ovation finale nella sfida domenicale che Toronto ha agilmente vinto sui suoi attuali Sacramento Kings. Ora, le medie stagionali, cioè 3 punti in poco più di un quarto di gioco per partita a Sacramento, non lasciano sperare in un proseguo della carriera anche la stagione Ventura, seppur il buon vecchio Vince non abbia né manifestato velleità di ritiro, né appaia più portatore di pretese di minutaggio, né di risultati di squadre al vertice. Il pubblico di Toronto gli tributa un'ovazione degna di un addio, ma chissà se il buon Vincredible ha già programmato meno un addio reale al basket giocato per fine stagione. Per gli amanti delle cifre tonde, del resto, lo scoccare del suo 20° campionato si trova ad un passo. Se il fisico regge, e sembra reggere, perché non tornare anche l'anno prossimo, ovviamente, se esistono squadre disposte a tenerlo sotto contratto? Ed a proposito di cifre tonde e di 20 stagioni di onorata carriera, nella notte tra lunedì e martedì, grande cerimonia allo Staples Center per il ritiro di maglia del signor Kobe Bryant, in occasione della sfida casalinga dei suoi Lakers contro i Golden State Warriors. In realtà i numeri ritirati sono stati ben 2, per la prima volta nella storia della Lega tra l'altro. Il buon Kobe ha infatti diviso la propria carriera per metà con l'8 sulle spalle, per l'altra metà con il 24. Due cicli di 10 anni ciascuno in cui è obiettivamente impossibile determinare con quale dei due numeri sia stato effettivamente migliore, anche se è un giochino che fanno in molti così tanto per discutere, un po' come abbiamo discusso su chi migliore sia tra LeBron e Jordan la settimana passata, un po' come mi verrebbe da fare per l'occasione in relazione al se Kobe possa essere o meno da considerarsi il migliore di sempre nella storia dei Lakers. Anche qui si tratta di un mescolare epoche distinte e squadre differenti, andando a pescare all'interno di un calderone dove hanno giocato veramente gran parte dei migliori interpreti nella storia del gioco. Già determinare chi sia stato ad esempio il miglior centro nella storia dei giallo-viola appare impossibile, pensando che in 3 epoche diverse ci hanno giocato Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar e Wilt Chamberlain, probabilmente 3 dei migliori 5 centri in assoluto di ogni epoca, e nelle 2 posizioni mancanti io inserirei Bill Russell e Hakeem Olajuwon, seppur non avendo assolutamente idea di come posizionarli. Lo stesso vale ovviamente per le guardie, dove Kobe si troverebbe a sgomitare con gente del livello di Jerry West e Magic Johnson. Anche al rispetto dell'essere giocatore vetrina, o quantomeno, come si dice in Italia, giocatore bandiera della squadra, la sfida è complessa, proprio perché in alternativa esiste un Magic che è divenuto negli anni la rappresentazione fisica proprio della città di Los Angeles in un immaginario collettivo anche più ampio, e quindi non solo per la pallacanestro, seppur Kobe abbia onorato la maglia per la bellezza di 20 stagioni, passando dalla high school direttamente alla NBA. E seppur lo stesso Magic Johnson, in presentazione al ritiro dei 2 numeri la notte precedente a questa registrazione, ha pubblicamente dichiarato, o definito meglio, Kobe Bryant il più grande giocatore di sempre della storia dei Lakers. Quindi se lo dice Magic, da un certo punto di vista possiamo anche prenderla per buona. Comunque, la carriera del figlio di Jelly Bee Bryant oramai la conosciamo tutti a memoria, in tutte le tappe possibili ed immaginabili, ed è quindi inutile perdere tempo a raccontarla di nuovo. Proviamo quindi a buttar via qualche minuto domandandoci se Kobe ha fatto parte della versione dei Lakers più forti di sempre o meno, perché se a livello personale è complicatissimo fare una classifica, a livello di gioco si può provare a stilarla in base sia ai risultati che agli apprezzamenti personali, in questo caso dico la mia. Kobe ha fatto parte ed ha vinto con 2 tipologie di Lakers differenti, seppur sempre accompagnato da Phil Jackson in panchina. La prima versione, quella del three-peat, era fondamentalmente però la squadra di Shaquille O'Neal, dove un Bryant in crescita sbocciava minuto dopo minuto, ma non era la prima opzione offensiva. Nella seconda versione, invece, il timone della squadra era affidato direttamente a lui. Nel frattempo è divenuto un giocatore quasi irreale, vicinissimo per qualità e capacità mentali ai più grandi di sempre, se non di diritto già entrato in quell'Olimpo, coadiuvato tra l'altro da gente come Paul Gasol ed un'altra costante quasi continua della sua carriera come Derek Fisher. Quando pensiamo a Los Angeles, però, e più generalmente al gioco NBA, molto spesso la prima cosa che viene in mente sono i Lakers dello Showtime, quelli guidati da Magic Johnson in contropiedi, con James Worthy, con Jabbar sotto canestro, con Michael Cooper ed altri fenomenali interpreti di questo sport, tra cui Pat Riley in panchina. Ora, una squadra simile può essere paragonabile solo con la prima versione dei Lakers targata a Jackson, con un Kobe Bryant capace spesso di rubarsi per sé i tiri dei minuti decisivi, ma con uno Shaquille O'Neal al suo fianco all'apice della carriera, al massimo del suo livello di unicità e indistruttibilità. Quei Lakers spazzarono via squadre di tutto rispetto, come gli Indiana Pacers di Reggie Miller, oppure una incredibile versione dei Portland Trail Blazers ed una sensazionale versione dei Sacramento Kings nella loro conference, per non parlare di come liquidarono senza batter quasi ciglio i Philadelphia 76ers di Allen Iverson, oppure i New Jersey Nets di Jason Kidd nelle altre due finali. Voglio dire, va considerato anche quanto e come Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, con un contorno che per la verità presentava un numero di veterani di discreto livello di esperienza, come Ron Harper, Horace Grant, Robert Horry, Glenn Rice, a scambiarsi talvolta nel triennio, si siano sbarazzati di giocatori che avrebbero potuto segnare un'epoca in alternativa. Che quella versione dei Lakers fosse meno entusiasmante dell'altra, quella che correva a tutto campo con il genio di Magic a gestire le operazioni di regia hollywoodiana come non mai, è dato di fatto. La prima era Jackson è stata caratterizzata dal gigantesco O'Neal come opzione principale attorno alla quale costruire il gioco in alternativa, con la seconda opzione offensiva rappresentata dall'allora numero 8, che già aveva mostrato di poter essere capace di farsi ricordare tra i migliori di sempre in futuro. Tuttavia, credo che proprio il connubio tra questi due ed il fattore per il quale Shaq era all'apice di una carriera incredibile, ma Kobe stava progressivamente crescendo, tendendo a raggiungere il suo apice, e quindi per almeno 3 anni, e tra qualche lamentela del nostro uomo, il sistema funzionò perfettamente a livello di gerarchie e risultati, questo renda quei Lakers i più forti della storia della franchigia. Forse, anzi sicuramente, non i più spettacolari da vedere a livello di gioco, ma senza ombra di dubbio i più difficili da battere, anche perché ci tengo a precisare che quello Shaquille O'Neal era veramente indistruttibile, irreale, dava un senso di dominio pazzesco, e probabilmente ve lo ricorderete bene quasi tutti che state ascoltandomi, perché comunque non si parla di anni così tanto distanti da oggi. Tornando comunque a Kobe Bryant e dal suo commosso ritorno allo Staples Center di fronte ad una meritata ovazione di quello che per 20 anni è stato il suo pubblico, c'è da dire un'ultima cosa. Nella sua stagione conclusiva, quella del Farewell Tour per gli stadi della Lega, Kobe sembrava essere la chioccia capace di lasciare le chiavi della squadra ad un giocatore la cui esperienza losangelina si è poi disintegrata ad una manciata di mesi dal suo ritiro, quel D'Angelo Russell oggi infortunato ma in forza ai Brooklyn Nets. A distanza di 2 anni dalla dipartita di Bryant dalla Lega, con i suoi 60 punti finali contro gli Utah Jazz nella sua ultima partita di sempre, in quella Los Angeles del no future, o perlomeno del felicità a momenti e futuro incerto, per citare stavolta Tonino Carotone piuttosto che i Sex Pistols, sembra essere tornato a splendere uno spiraglio di sole piuttosto luminoso. Brandon Ingram, infatti, è cresciuto in tutto e per davvero. Julius Randle rappresenta quasi una sicurezza. Il contorno guidato da Clarkson dà conferme vicine ad essere una garanzia. E c'è poi quel Lonzo Ball che appare in crescita esponenziale nella sua prima stagione nella Lega, seppur ancora con percentuale di tiro piuttosto insufficiente rispetto alle aspettative. Los Angeles può tornare nel giro di poco protagonista anche a livello di risultati, e secondo il sottoscritto, all'appendere delle scarpette al chiodo, Kobe Bryant stesso non l'avrebbe potuto prevedere in così poco tempo. Benissimo, anche questa settimana NBA Week si conclude qui. L'occasione è quella giusta per farvi i miei più sinceri auguri di Buon Natale e ringraziarvi ancora una volta per l'ascolto. rispetto a quelli per il nuovo anno in arrivo, ci sentiremo la settimana prossima, anche perché c'è da parlare di una Christmas Night che si prospetta entusiasmante, non dimentichiamocelo. Per la penultima volta nel 2017 vi rinnovo il calendario dei nostri appuntamenti, ricordandovi di seguire sempre la nostra pagina Facebook che si chiama appunto NBA Week per aggiornamenti ed eventuali commenti dell'ultimo minuto. Invece, come al solito, se volete potete ascoltarci tutti i venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie ancora per l'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima.